La rosa purpurea di Franco D'Assisi. Ben ritrovati amici, eccoci qua all'appuntamento settimanale con la rosa purpura che non vi lascia neanche durante questa calda estate 2012. Metà luglio, periodo in cui la carenza di prodotto cinematografico comincia a farsi sentire, tranne qualche film che vivacizza un po' le attese del botteghino. Questa settimana penso tocchi il minimo storico in quanto a quantità di uscite. Pensate, sono solo due i nuovi film che arrivano in sala. Penso non si sia fatto mai peggio di così durante tutto l'anno. Questi due film sono Free Runner e soprattutto direi Biancaneve e Il Cacciatore. Qualcuno si è ritirato all'ultimo minuto con qualche altra proposta, qualche distribuzione evidentemente ha sentito il caldo più di altre. Fatto sta che di questi due film parleremo, però in questa puntata cominciamo anche un viaggio alla scoperta del Moretti pensiero, perché reduci dalla mostra del Nuovo Cinema di Pesaro in cui Moretti ha tenuto una lezione di cinema, siamo così contenti di potervi proporre fra queste e le prossime due puntate gli stralci, le perle, i momenti più ironici, più divertenti o anche più ispirati alla riflessione cinematografica della lezione di cinema di Nanni Moretti qui alla Rosa Purpurea su Radio 24. Quindi state con noi perché ci sarà di che imparare e anche divertirsi. E allora cominciamo a riepilogare i nostri contenuti nei titoli di testa. Specchio, specchio delle mie brame. La formula magica più inquietante del mondo delle fiabe riecheggia di nuovo sul grande schermo. Esce Biancaneve e il Cacciatore, con Kristen Stewart e Charlize Theron. Correre a più non posso per salvarsi la vita. È la trama di Free Runner, action movie nei cinema italiani, a metà fra Crank e Hunger Games. Sostiene Nanni, perle di saggezza e ironia nel Moretti pensiero dalla lezione di cinema del Festival di Pesaro, per conoscere meglio uno dei grandi protagonisti del cinema contemporaneo. E Beautiful Mind in videoteca, il capolavoro di Ron Howard, con un grande Russell Crowe nei panni del matematico da Nobel John Nash, arriva nella versione Blu-ray in alta definizione. Dicevamo Free Runner, il primo film di cui ci occupiamo, ma prima volevo dare un'occhiata alla classifica di partenza, perché come dicevo è un periodo di bassissima stagione, con però qualche film che dovrebbe avere il compito arduo, assai arduo, di movimentare il botteghino. Ci sta provando The Amazing Spider-Man, che ha totalizzato nel suo primo passaggio, diciamo così, al cinema 4 milioni e mezzo di euro. I dati sono aggiornati al weekend della scorsa settimana. C'è stata di mezzo tutta questa settimana e quindi The Amazing Spider-Man sta facendo il suo lavoro. In America lo sta facendo alla grande, perché in America è già arrivato a 140 milioni di dollari di incasso ed è primo in classifica, così come in Italia. Però in Italia l'abisso è davvero impressionante tra il primo posto e, pensate, il secondo. Cioè dietro Spider-Man c'è Il Dittatore, che prende qualcosa come 160.000 euro al botteghino nel weekend. Ecco, questa è la differenza. Insomma, la gente sta andando a vedere solamente The Amazing Spider-Man. Forse da questo fine settimana comincerà ad andare a vedere anche Biancaneve e il Cacciatore, di cui parleremo fra poco. Prima però, dicevo, c'è Free Run, e allora cerchiamo di entrare un po' nel clima del film con questa clip. Siete appena diventati i partecipanti alla gara per la vostra vita. Il dispositivo che avete intorno al collo esploderà esattamente fra 60 minuti. $1 milione per chi di voi arriverà per primo sul ponte della ferrovia. Vi guarderemo tutti. Vuoi andartene dalla città? È la nostra occasione. Tu non lo hai mai battuto. Ora è diverso. Ti garantisco che quel giochino ti farà scoppiare un gran mal di testa. E allora, avete sentito questa clip di Free Runner? Direi che il sottotitolo italiano è quanto mai enunciativo della situazione, cioè Corri o muori. Un genere, è diventato anche un genere questo filone dell'action movie in cui il protagonista deve continuare a correre, perché altrimenti, diciamo così, la sua vita potrà correre dei seri rischi. Ne avevamo visti parecchi, Crank negli anni scorsi, ma anche all'inizio di questa stagione qui abbiamo questo Ryan Carter che partecipa a queste gare di free running mentre di notte fa le pulizie in un ospedale, però siccome vuole vincere tanti soldi da portare la sua fidanzata e suo nonno fuori dalle baraccopoli di questa futuribile Metro City e tornare a vivere vicino al mare, partecipa a una gara di free run organizzata da un pericoloso criminale. Insomma, questo è un po' il plot, poverino se volete, però poi dopo tutto il resto è il tentativo di dare adrenalina con il film. Boris Sollazzo con noi, ciao Boris, ben ritrovato. Dicevamo settimana abbastanza emaciata e abbastanza pallida sotto il profilo delle uscite cinematografiche, bisogna accontentarsi di quel che c'è. Questo Free Runner può essere un film che vale la spesa del biglietto? Sì, intanto buongiorno Franco e buongiorno a tutti gli ascoltatori. Direi di no, direi che Free Runner non credo che intaccherà neanche il secondo posto del Dittatore, che è pur uscito il 15 giugno, è ancora lì in alto sul podio. Free Runner, oltre ad avere un plot povero, è davvero un plot spremuto in tutte le sue parti da vari altri illustri predecessori, ma penso l'implacabile con Arnold Schwarzenegger, da cui prende tra l'altro l'idea, che era stata ripresa pure dal film sotto stretta sorveglianza degli inizi anni 90, dei collari esplosivi, perché questi qua muoiono perché nel momento in cui perdono il collare che hanno attorno a loro simpaticamente esplode, dandogli un forte mal di testa, come dice la battuta. Ma ce ne sono state altre, The Gamer con Gerard Butler, lo stesso Hunger Games in fondo si fonda sullo stesso tipo di situazione, e quindi non c'è nulla sostanzialmente da raccontare di più. Si cerca poi di prendere anche la parte più interessante degli horror degli ultimi anni, quindi da Hostel a Quella casa nel bosco, con il sottotesto anticapitalista di questi ricchi che vogliono sfruttare la morte altrui per rendere meno noiose le proprie vite, e quindi puntano, organizzano questi giochi e puntano su, scommettono su questi giochi per, nonostante ci sia la vita di mezzo, per divertirsi e per riuscire ad andare avanti. L'unica cosa vagamente interessante di questo free running forse è la capacità acrobatica dei protagonisti, dei 4-5 protagonisti, che in effetti in alcuni momenti danno vita a evoluzioni al limite dell'impossibile, in alcuni casi non aiutati, anzi in molti casi non aiutati neanche dagli effetti speciali, ma il resto c'è una povertà assoluta. L'esordiente alla regia mostra tutti i suoi limiti dell'inesperienza, gli attori hanno belle facce ma poco altro, e il film alla fine risulta decisamente noioso. Specchio, specchio delle mie brame, chi è la più bella del reame? Tu sei la più bella, ma c'è una donna destinata a superarti. Che cosa vuole da me? Prendi il suo cuore e regnerai per sempre. E allora è una formula che abbiamo sentito chissà quante volte da bambini, quante volte l'abbiamo raccontata come genitori, quante volte l'abbiamo anche vista al cinema. Specchio, specchio delle mie brame. Biancaneve torna al cinema nella versione firmata Rupert Sanders con Kirsten Stewart, ormai irrinunciabile in questo tipo di ruoli, nei panni proprio di Biancaneve, Chris Hemsworth alias Thor nei panni del cacciatore impavido, Charlize Theron nei panni della regina cattiva, e poi un cast con diverse punte. Mi viene in mente Bob Hoskins nei panni del nano, ma non è ironia, anche perché per i sette nani qui sono stati usati attori veri, e c'è stata anche una polemica con le associazioni dei veri, delle vere persone affette da nanismo, che hanno detto: perché non avete usato dei nani per fare i nani? Insomma, attorno a Biancaneve si è scatenato un po' l'interesse da più punti di vista. Ora, la favola è nota, ma non è nota come l'abbiamo vista qui, perché siamo abituati a pensare appunto alla candida Biancaneve che appunto deve fare in modo di sfuggire alle grinfie perfide della regina malvagia. Qui tutto è così, ma in uno scenario, e questo forse è il regalo più grande che questo film ha fatto alla favola di Biancaneve, è uno scenario totalmente modificato, assolutamente dark, dove lo sporco, la terra si sentono e dove nulla è edulcorato, e dove la regina, per esempio, oltre che malvagia, sembra anche un po' depressa. Insomma, i personaggi sono rielaborati, forse riadattati anche alla nostra epoca. Io ho avuto la fortuna di vedere il film in lingua originale, quindi di ascoltare la recitazione dei protagonisti, ed è anche una recitazione di livello. Penso alla Charlize Theron, che è una regina che funziona molto bene. Ma questa è in analisi di commento, lo vedremo dopo poi con Boris Sollazzo. La storia, dicevamo, come si diceva, la storia è nota. La regina, intanto scopriamo il suo passato, la regina Ravenna, aveva subito dei torti, diciamo così, da piccoli, da un re malvagio, e a questo punto vuole vendicarsi praticamente contro gli uomini. Ma siccome accanto a lei, in una torre isolata, sta crescendo la piccola Biancaneve, strappata al padre proprio dalla regina malvagia, e la piccola Biancaneve comincia a mostrare i segni di una bellezza talmente perfetta, talmente pura da essere inquietante per la sovrana, ecco che la regina commissiona all'unico uomo che può avventurarsi nei boschi e nelle lande desolate e pericolose, e anche stregate, che sorgono appena fuori dal castello, insomma commissiona una sorta di rapimento / omicidio. Sentiamo. Uno dei miei prigionieri è fuggito là. Allora è morto. È una donna. Allora è morta di sicuro. Trovala. Riportala da me. No, sono stato in quella foresta, non ci tornerò mai. Sarai ricompensato lautamente. Ma che ci farò con loro se sarò morto e i corvi mi beccheranno gli occhi? Perché lei è tanto preziosa? Questo di certo non ti riguarda. Stabilisco io cosa mi riguarda, grazie. Tu, cacciatore, andrai e farai questo per me! Come potete immaginare, le cose andranno proprio così. Il cacciatore diventerà un po' meno tutto d'un pezzo, anche se è Chris Hemsworth e ha un fisico da supereroe, come possiamo dire. Ebbene, si avventurerà in questo viaggio a cercare questo prigioniero fuggito, che, come avete capito, niente di meno è che Biancaneve. Questo è il loro primo incontro. Silenzio. D'accordo. Ma che storia è questa? Chi sei? Perché la regina ti vuole morta? Vuole che moriamo tutti, tutti noi! E cosa ti rende tanto preziosa? Mi dai la caccia, dovresti saperlo! No. Ah, che importa. Non mi sarei dovuto immischiare nelle faccende della regina. No. Se torni senza di me sei morto. Se mi lasci qui, sono morta io. Il viaggio di Biancaneve e del cacciatore proseguirà insieme, proseguirà da una parte il tentativo di trovare una soluzione, soprattutto alle spalle gli sgherri cattivi della regina che inseguono, che tendono imboscate, fino a quando si arriva in una sorta di area fatata, dove elfi, nani appunto, piante che sembrano persone, animali che sembrano piante, insomma tutto questo senso di magia e di splendore, cervi bianchi fatti di farfalle, si parerà davanti agli occhi di Biancaneve, ma sarà solo una parentesi, perché da lì in poi le cose andranno come sapete, e il duello finale fra Biancaneve e la regina cattiva sarà inevitabile all'interno, nel cuore del castello. Allora adesso prendiamoci un attimo una pausa, giochiamo insieme, fra poco parliamo con Boris Sollazzo, analizziamo più criticamente questo Biancaneve e il cacciatore. Dicevo, prima clip del DVD Game di oggi, sentiamo il film misterioso. I ladri sono entrati in casa loro, signor Huff. La polizza d'assicurazione copre qualsiasi... Io non voglio sapere che cosa copre. Non parlarmi della copertura! Dimmi come fare perché la società non vada in rosso! Dimmi com'è possibile se firmi assegni ad ogni signor mi rubano o signora sono disperata che ti fanno una telefonata! Allora, se avete già indovinato di che film si tratta, scriveteci alla rosapurpura@radio24.it con il vostro nome, cognome e indirizzo, il titolo del film, per provare a vincere una copia del Blu-ray di questo film per il più bravo e veloce fra i nostri ascoltatori del sabato e della domenica più tardi. Ci saranno altre due possibilità. Torniamo allora a parlare di Biancaneve e il cacciatore. Boris, ci sei? Ci sono. Eccoti sì. qua, eccoti qua. Allora, dicevamo, alla fine è diventata la proposta unica di questa settimana, questo Biancaneve. Io sono rimasto abbastanza stupito e convinto da questo film, sorpreso positivamente, perché mi aspettavo le cose finissero come in Cappuccetto Rosso Sangue, che era un po' una boiata, diciamo pure tranquillamente. Invece qui mi sembra che ci sia della qualità nel disegnare uno scenario, nel ridisegnare una favola centenaria, ci sia della qualità nella recitazione, nella scelta anche di questi attori. Per una volta ci sia della qualità alta anche nel doppiaggio. Abbiamo sentito, le clip rendono molto il clima di drammaticità, con qualche venatura addirittura horror, e alcune trovate davvero straordinarie. Questo Specchio delle mie brame, che sembra un grosso gong di quelli che usavano gli Yes nei concerti degli anni 70, è fatto quasi di rame, ma è una materia melliflua che si scioglie, che riprende forma sotto gli occhi della regina. Ecco, mi sembra che le componenti siano state reinterpretate nella maniera più interessante, divertente e anche attuale per rispondere ai gusti del pubblico di oggi. Guarda, è una delle rare occasioni in cui non siamo d'accordo, nel senso che io invece sono rimasto molto deluso, forse perché il trailer ci aveva già fatto, come dire, assaporare una Biancaneve action e dark. Secondo me ci sono tutte le anime che hai detto tu, ma tutte immature, tra virgolette. Cioè, non si sa se Biancaneve vuole essere romanzo di formazione, vuole essere favola, vuole essere appunto un momento dark all'interno del cinema, un momento dark alla Grimm, ovviamente, perché molto di quello che tu hai raccontato viene dal fatto che molte delle nostre favole sono state rimodellate e alcune volte edulcorate dalle versioni molto più cattive dei Grimm. E poi c'è, secondo me, un equivoco banale di base, ma che rende tutto meno credibile, che insomma potrebbe essere riassunto in specchio delle mie brame, mettete gli occhiali, perché la Theron non può essere più brutta della Stewart, che sembra un qualcosa di banale, ma di fatto ti toglie molto della credibilità del film. Ci sono sicuramente dei momenti belli, come dicevi tu, uno di questi è l'apparato iconografico e scenografico, dallo specchio ad alcuni momenti nella foresta. Però devo dire che, per esempio, la parte con i nani è una parte, a mio parere, debolissima, una parte anche del cacciatore e della regina Ravenna mi sembra non riuscire ad avere lo spessore che vorrebbe avere all'interno della trama. Forse anche perché Hemsworth, a mio parere, non ha questo carisma straordinario, e la Theron è straordinaria nella versione originale e, a mio parere, un po' troppo teatrale nella versione doppiata. Sono d'accordissimo con te che gli attori sono comunque molto molto bravi, tutti quanti. Spero che si possa vedere in lingua originale, perché non c'è paragone tra le due versioni, però ammetto che anche in questo caso io ho provato una profonda delusione, forse perché l'impressione è che si potesse ancora più calcare la mano sull'aspetto meno conosciuto della favola di Biancaneve. La recensione di Boris è l'avete sentita. Io sono convinto di due cose, però torno sui miei così principi sul film, su due cose. Uno, che è vero, ci sono alcune cose che sono abbozzate, per esempio il ruolo dei nani è vero che è un ruolo meno evidente rispetto a quello che ci è stato tramandato dalle favole. Non li vedrete fischiettare andiamo a lavorare, per intenderci. Però è anche vero che penso questa sia una scelta, cioè quella parte favolistica, estremamente favolistica della storia è molto limitata, mentre invece tutta la parte dell'inseguimento più d'azione, più legata a questo aspetto della storia, alla maledizione eccetera, è quella prevalente. Immagino sia stata fatta una scelta in merito. E anche il ruolo del cacciatore, anche il ruolo di alcuni personaggi di richiamo mi è piaciuto per la loro per il loro essere abbastanza grezzi, abbastanza poco raffinati, inseriti, come dire, in una cattiveria della scrittura che tutto sommato, a mio modo di vedere, è forse l'unico modo oggi nel 2012 di riportare in auge una storia che peraltro invece si è già vista in tutte le salse, come dicevamo. Ed è vero quello che dici tu, l'immaginario nostro è stato gravato proprio dalle Biancaneve storiche, a partire da quella disneyana che abbiamo visto. Molti di noi non hanno letto invece la vera Biancaneve neve di Grimm. E qui, fra corvi che diventano soldati, soldati che si infrangono in migliaia di schegge, insomma, trovate, ce ne sono davvero molte. Rimango dell'idea che sia un ottimo spettacolo e un film che tutto sommato tiene una certa tensione, anche se magari un po' lunghino, però insomma, per essere, come dire, metà luglio e avere in giro quello che c'è, mi sembra un film che tutto sommato può portare a casa la sua sufficienza piena. Questo è comunque Biancaneve il cacciatore, andatelo a vedere, non resta come sempre che andare al cinema e vedere il film e poi capirete se sarete più d'accordo con me, con Boris o con voi stessi, che magari avrete una terza, una quarta, una quinta via di lettura di questo film. A questo punto io saluto Boris Sollazzo e do appuntamento alla prossima settimana. Ciao Boris. Alla prossima settimana. Labbra rosso sangue, chioma di nero fulgore. Cara, cara, Biancaneve, dammi il tuo cuore. Eccoci ancora insieme, terza parte della Rosa Purpurea. Visto che, come abbiamo detto, l'estate ci toglie un po' di contenuti, di novità in sala, che sono sempre il cuore del nostro programma, noi siamo andati a beccarci una sala nella quale si è svolto un evento davvero speciale, alla Mostra del Nuovo Cinema di Pesaro, il Festival di Pesaro, che si è concluso lo scorso 2 luglio con la vittoria, tra l'altro, del concorso del film bosniaco Dieka, Buonanno Sarajevo di Aida Begic, che ha vinto il primo premio. Ebbene, dicevamo, al di là di rassegne, concorsi, cortometraggi, lungometraggi, documentari che sono stati molto presenti quest'anno a Pesaro, c'è stata il consueto incontro, ormai chiamato lezione di cinema. L'anno scorso vi avevamo fatto ascoltare durante l'estate Bernardo Bertolucci, che era stato l'ospite di quella edizione. Quest'anno è toccato a Nanni Moretti, tra l'altro diciamo così, la sua presenza a Pesaro è stata interessante, divertente, di un paio di giorni, è anche corroborata da una completa retrospettiva dei suoi film e anche da una mostra fotografica allestita in una galleria locale, proprio delle foto scattate sui suoi set, delle foto di scena. Ma, dicevo, il cuore è stato l'incontro, un incontro affollatissimo, biglietti esauriti, gratuiti ma esauriti già da giorni precedenti, grande fila sotto il sole per poter entrare al Cinema Teatro Sperimentale dove si svolgeva questo incontro, e poi appunto quasi due ore di chiacchiere con Nanni Moretti, che è un personaggio che non parla moltissimo, come vedete, spesso diciamo così sparisce dalla circolazione mediatica. Ebbene, è stata una grandissima occasione quella di essere lì e ascoltare il suo pensiero sul cinema, soprattutto sul cinema, devo dire, sulla sua vita, sì, qualche reminiscenza d'infanzia, qualche piccolo ricordo, ma soprattutto sul suo modo di approcciare il cinema sotto tutte le molteplici funzioni che Nanni Moretti ricopre, perché noi lo conosciamo ovviamente come regista e attore soprattutto dei suoi film, ma Nanni Moretti è anche distributore, produttore, esercente con il suo nuovo Sacher a Roma, e sono tutte cose che fa con la stessa passione, con la stessa applicazione. E allora è importante vedere le sfaccettature del Moretti pensiero per ricostruirne appunto l'immagine nella maniera più precisa possibile. Allora noi vogliamo proprio da questa puntata e nelle prossime tre puntate raccontarvi il meglio di questa lezione di cinema, certi di darvi un assaggio di un personaggio unico nel cinema italiano contemporaneo. Cominciamo allora proprio con la sua formazione, come si è formata la vena registica di Nanni Moretti, quanto ha influito la sua qualità di spettatore. Sentiamo. Le mie esperienze di spettatore sono state importanti per il mio lavoro di regista, e come spettatore tanti anni fa, ma anche oggi, e quindi come regista ero e sono molto legato al cinema degli autori degli anni 60 a cui tu facevi riferimento, perché erano film che contemporaneamente riflettevano sul cinema e riflettevano sulla realtà, ecco, ognuno con il proprio stile, però attraverso quei film si prefigurava un nuovo cinema e una nuova realtà, una nuova società. Ecco, quindi non erano solo aridi film che riflettevano sul cinema, o non erano film politici magari un po' rozzi che si disinteressavano del mezzo espressivo che stavano usando. No, erano autori molto consapevoli che riflettevano sia sulla realtà, rifiutando l'eredità della società che avevano avuto dai loro padri, e riflettevano anche sul cinema, e anche lì rifiutando così il cinema che avevano avuto in eredità. Un Nanni Moretti quindi che a cui piaceva quel cinema che sapeva cambiare la realtà e anche cambiare il cinema. Un Nanni Moretti quindi cinefilo e regista allo stesso punto nella sua formazione. Com'è cambiato però negli anni come spettatore e come regista? Ci sono registi molto più colti cinematograficamente di me. Il primo che mi viene in mente è Gianni Amelio. Io sono un appassionato di cinema, sono arrivato a essere uno spettatore costante abbastanza tardi, ecco, non è che la mia infanzia è come quella raccontata da François Truffaut in un suo film, per cui si vedeva quel bambino piccolo che andava al cinema tutti i pomeriggi. No, io verso i 15 anni ho cominciato ad andare con una certa assiduità al cinema. Il pomeriggio ero al cinema a Nuovo Olimpia o Farnese a Roma, e la sera ero alla piscina del Foro Italico a giocare a pallanuoto, ecco, verso i 15 anni. Ho parlato prima del mio essere spettatore. È difficile parlare di se stessi, no? E dire io sono cambiato, lo si dice sempre in meglio, oppure io sono rimasto lo stesso, non... cioè, abbiamo poca distacco su noi stessi, però per quel poco che posso capire di me, mi sembra rispetto a 40 anni fa, quando cominciavo a fare i miei primi filmini in Super 8, mi sembra di avere come spettatore la stessa curiosità di vedere il film degli altri che avevo allora, e mi sembra come regista di avere la voglia di raccontare storie, ecco, attraverso il cinema. Quindi mi sembra che anche come spettatore mi sembra che il mio rapporto col cinema sia integro, ecco. Sono sempre curioso di vedere i film degli altri registi, e poi ogni tanto li programmo nel mio cinema, ogni tanto li distribuisco anche. Se io faccio degli altri lavori, oltre a quello mio di regista, quindi esercente, cinematografico, distributore, produttore, ecco, non lo faccio per dovere, lo faccio con piacere, ecco, non mi sento portatore di una missione, mi fa piacere condividere con altri spettatori le mie scelte, ecco. Nanni Moretti dalla lezione di cinema del Festival di Pesaro. Fra poco sentirete un altro paio di sue interessanti dichiarazioni, però prima apriamo la seconda parentesi sul nostro DVD Game e ascoltiamo la nuova traccia del film misterioso di oggi. Per quante volte uno salvi il mondo, quello riesce sempre a rimettersi di nuovo nei guai. Insomma, a volte vorrei dirgli: resta in salvo, capisci? Per un pochino. Mi sembra quella cameriera. Ho appena finito di pulire qui dentro, si può cercare di non sporcare per 10 minuti? Di che film si tratta? Per provare a vincere il Blu-ray di questo film, La Rosa Purpurea, @radio24.it, vostro nome, cognome, indirizzo e ovviamente il titolo del film. Più tardi ci sarà l'ultima possibilità. E torniamo a Nanni Moretti, con la nostra lezione di cinema dal Festival di Pesaro. Parliamo di sempre della duplicità di Nanni Moretti, in questo caso regista e attore. Ora, al di là della parte, diciamo, creativa del film, molti si chiedono come si coniugano queste due funzioni sul set, proprio nel pratico. Come fa un regista che deve stare dietro la macchina della presa, vedere come sta venendo la scena, a essere anche davanti, a recitare, magari a dirigere mentre è davanti che recita? Ecco, come se la cava Nanni Moretti con questo doppio compito? Forse era un po' più difficile all'inizio, perché da Palombella Rossa in poi, come tutti i registi, ho la possibilità, appena fatto il Chuck, poi di vedere al monitor il Chuck appena fatto. Prima non esisteva questo controllo video. Prima un attore regista chiedeva all'operatore di macchina, all'aiuto regista, insomma, com'era andata, se c'erano stati dei movimenti non previsti o delle comparse magari alle spalle della regista protagonista. Beh, insomma, bisogna essere concentrati su più fronti, perché bisogna, come dire, essere regista, attore, e magari se sei attore nella stessa inquadratura con altri attori, anche recitare, ma anche dirigere un po' gli attori e attrici che stanno accanto a te in quel ciak. Fin dall'inizio, quando ho fatto i miei primi tre cortometraggi in Super 8, e mi sono venute naturali tre cose che poi mi sono portato dietro sempre, fino a ora. Mettermi non solo dietro la macchina da presa, ma anche davanti. Raccontare del mio ambiente politico, sociale, generazionale. E la terza cosa legata a questa, che mi è venuta naturale fin da subito, fin dai Super 8, era raccontare il mio ambiente, e quindi anche un po' me, con ironia, ecco, prendendomi in giro, ecco, quindi con autoironia. Uno dei film più noti di Nanni Moretti è senza dubbio Palombella Rossa, e proprio alla metafora della pallanuoto Nanni Moretti fa riferimento per spiegare il suo approccio e il suo stile di regia. Io giocavo a pallanuoto e mi ero specializzato in un tiro che era la palombella, cioè il pallonetto, insomma. Anzi, la palombella dalla parte sbagliata, perché c'è una parte giusta, diciamo, per uno che non è mancino, che è destro, cioè da sinistra verso destra. Questa è la parte giusta. Io mi ero specializzato nella palombella, oltretutto dalla parte sbagliata, da destra verso sinistra. Perché questo? Avevo fatto di necessità virtù, avevo visione di gioco, ero, sembra una battuta, però il regista della squadra, il centrovasca. Però non ero forte fisicamente, molto forte fisicamente. E allora avevo fatto di necessità virtù e mi ero in questo modo costruito un mio stile di gioco. Ecco. La palombella appunto è un tiro non di potenza ma di astuzia e precisione. Così anche ho iniziato a girare io in Super 8, perché non ci sono girati in Super 8 solo i primi tre cortometraggi ma anche il primo lungometraggio. Io sono un autarchico. E anche lì ho fatto di necessità virtù, cioè sapevo che non potevo disporre di attori professionisti. Ho utilizzato e ho cominciato la sfida che poi mi sono portato dietro molto a lungo, anzi fino ad ora, di utilizzare spesso nei miei film attori non professionisti, capire che cosa può interpretare un mio amico, un parente che non fa l'attore, un conoscente, un critico cinematografico no. E, insomma, che no, sì, invece, Tatti Sanguinetti e Gianni Buttafava, due vostri colleghi, li ho utilizzati nei miei film. Quindi, come dire, mi piaceva anche al cinema certi film fatti con la macchina da presa fissa, senza muoverla, diciamo, un po' a casaccio o inutilmente. Allora, facendo di necessità virtù, soprattutto nei primi film, Io sono autarchico, Eccebombo, forse anche Sogni d'oro, molto l'utilizzo della macchina fissa, insomma, cioè creare un mio stile per cui magari la macchina da presa, sto parlando dell'inizio, non andava appresso agli attori, ma erano magari gli attori che si muovevano all'interno di un quadro fisso. Questo per ricordare anche a me stesso e agli spettatori che comunque non è che stavano assistendo alla realtà, ma a un mio punto di vista sulla realtà, a una mia interpretazione della realtà, comunque a un artificio. Gli strati della lezione di cinema di Nanni Moretti al Festival di Pesaro qui alla Rosa Purpurea. Nelle prossime due puntate andremo avanti con il Moretti pensiero, potremmo chiamarlo Sostiene Moretti, questo piccolo percorso. Parleremo ancora della sua carriera, parleremo anche dei suoi film più recenti, alcuni retroscena, l'incontro con grandi attori, l'ultimo dei quali Michel Piccolini, il suo Abemus Papam. Insomma, ci sarà davvero molto di cui parlare, molto di cui sentire con Nanni Moretti. Adesso sentiamo invece come vanno le cose sulle strade, fra poco parliamo di un video. Eccoci ancora insieme, la quarta parte della Rosa Purpurea, come sempre dedicata al cinema da vedere in casa e come sempre aperta dalle segnalazioni del settimanale Film TV, che ci racconta un po' che cosa abbiamo scelto dai palinsesti in chiaro e gratuiti della prossima settimana per un paio di proposte cinematografiche, come si deve. E allora io saluto Giulio San Giorgio di Film TV, che è già in collegamento con noi. Ciao Giulio. Ciao Franco e ben ritrovati con le nostre segnalazioni. Allora, abbiamo scelto innanzitutto un film che è proprio il caso di vedere perché non, diciamo, abitudinario nei passaggi televisivi, ovvero un film che si intitola Diario del Saccheggio. È un viaggio, diciamo così, nell'Argentina della grande crisi dell'inizio degli anni 2000, firmato dal più grande dei registi argentini, Fernando Solanas, detto Pino, regista che ci ha regalato film memorabili come Tangos, L'Exil de Gardel, La Nube, per intenderci, che qui invece in questo documentario tratteggia proprio i perché di una crisi che oggi è forse molto interessante anche rivedere in chiave di crisi europea. Sì, assolutamente. Diario del Saccheggio, domenica 15 luglio su Rai 5 alle 21.15. Infatti la voce di Solanas commenta il percorso che ha portato appunto all'inizio del decennio scorso la devastante crisi economica argentina, in una ricostruzione che alterna materiale d'archivio e attualità e che con precisione e coraggio indica i nomi dei colpevoli e descrive uno degli effetti collaterali di politiche neoliberiste e aberranti. È un vero e proprio pamphlet politico, un discorso critico e assolutamente lucido sulla globalizzazione e che si pone come memoria del corporativismo e della mafiocrazia, diciamo, che hanno tradito e saccheggiato un paese. Fa parte il film di un dittico composto anche dalla dignità degli ultimi, altro documentario di Solanas. E allora ricordiamo il passaggio televisivo domenica 15 luglio Rai 5 alle 21.15 per Diario del Saccheggio di Fernando Solanas. Un altro film, questa volta quanto mai un film di finzione, di messa in scena, firmato da una delle menti più incredibili sotto tutti i profili del cinema contemporaneo, quella di Lars von Trier. Stiamo parlando di Dogville. Sì, Dogville, mercoledì 18 luglio su Iris a mezzanotte 45. Negli anni 30 una donna in fuga, Grace, ripara a Dogville, villaggio di campagna, dove cerca di integrarsi in una comunità molto chiusa che fatica ad accoglierla, la accoglie e infine la umilia, ma nulla in fondo è ciò che sembra. Von Trier scava dietro le apparenze della sua idea di America in una scenografia nuda e astratta, dove le case e le pareti sono semplici segni di gesso a terra, dove si vede tutto ma si finge di non vedere, e questa è una questione morale oltre che una provocazione estetica. La classica donna martire di Von Trier, che è una Kidman in un tour de force attoriale incredibile e degradante, è una Grace, una grazia che il mondo non si merita, un capolavoro straniante tra Beckett e Brecht, è una prima parte di una trilogia proseguita poi con Manderley ma mai conclusa. E allora Dogville passa su Iris alle 0.45 mercoledì 18 luglio. Grazie a Giulio San Giorgio di Film TV. Grazie a te Franco e alla prossima settimana con le nostre segnalazioni. Ebbene, allora, dopo aver pescato queste due autentiche perle dai palinsesti televisivi in chiaro e gratuiti della prossima settimana, noi giochiamo con la terza e conclusiva traccia del film misterioso di oggi. Ah, un'ultima cosa. Ovviamente questo robot è per noi un investimento notevole. Volete che lo spenga senza distruggerlo del tutto? Ma lei è davvero incredibile. La Rosa Purpurea @radio24.it, di che film si tratta, vostro nome, cognome e indirizzo al nostro indirizzo email per provare a vincere il Blu-ray di questo film. 7 giorni fa avevamo giocato con questa clip. Vede, vorremmo effettuare un esperimento sugli occhi della ragazza. Come lei probabilmente saprà, spesso l'ultima immagine vista dalla vittima prima di morire resta per parecchie ore impressionata sulla retina. Ora, con un procedimento difficile, ma non impossibile, si può fotografare questa immagine. Uno dei capolavori del maestro del brivido italiano, quando era forse davvero nel suo momento migliore. 4 mosche di velluto grigio di Dario Argento, era questo il game con il quale abbiamo giocato la scorsa settimana per la sua nuova edizione in un video. Hanno vinto Federico Baldi di Novara e Marcello Topa di San Donato Milanese. Saranno loro a ricevere l'edizione di questo film di cui ci racconta adesso tutto il nostro Claudio Pofi. Ciao Claudio. Ciao Franco, un saluto agli ascoltatori. Allora, da 01 Rai Cinema, la prima edizione italiana su DVD di una delle opere storiche di Dario Argento, offerta nell'originale formato CinemaScope di eccellente qualità video, c'è una doppia traccia, 2 canali, Dolby Digital italiano e tedesco, sono quelle originali dell'epoca, comunque di accettabile resa. Come extra purtroppo abbiamo solo il trailer. Ricordo che in Inghilterra è già stata editata una versione in alta definizione con audio italiano. E allora, questo per quel che concerne Quattro mosche di velluto grigio, il game della scorsa settimana. Allora andiamo invece alle nuove proposte, alle novità che arrivano anche in questo mese di luglio nelle videoteche, nelle poche videoteche italiane rimaste, ma comunque disponibili anche nei grandi megastore. E Beautiful Mind è un film sul quale ci siamo voluti soffermare questa settimana, un film che ha compiuto da poco una decina d'anni, ma che rimane uno dei film più belli dell'inizio del nuovo millennio. Ecco, i russi hanno la bomba H, i nazisti stanno ripopolando il Sud America, i cinesi hanno un esercito permanente di 2.800.000 uomini e io faccio test di resistenza per una diga. Ehi, guarda, sei sulla copertina di Fortune, un'altra Prego volta. Di notare l'uso di sei invece che siamo. Ci dovevo essere soltanto io. Oh. Quindi non solo mi rubano la medaglia Fields, adesso mi mettono sulla copertina di Fortune insieme a questi cialtroni studiosi di banalità. John, che differenza c'è di preciso fra un genio e un supergenio? Una bella differenza. Verso la fine degli anni 40 John Nash è uno studioso di matematica a Princeton, è molto schivo, è poco socievole, non incontra le amicizie altrui, ma ha geniali intuizioni che pongono le basi di rivoluzionarie teorie nel campo economico. Però purtroppo una serie di instabilità psicologiche porteranno la sua mente illuminata verso le difficoltà della schizofrenia, un buio in cui scivolerà lentamente prima ancora di diventare ricercatore consulente per il governo americano durante la Guerra Fredda. Tra romanzo e biografia, il regista Ron Howard rese spettacolare la matematica più complessa senza mai scadere nel racconto artificioso, aiutato dal forte temperamento di un Russell Crowe nel ruolo del grande matematico. L'Universo è un'edizione Blu-ray alta definizione di eccellente qualità video, capace di riportare la memoria e la visione nella sala cinema. La traccia audio in italiano purtroppo è la stessa del precedente DVD in Dolby Digital. Non ci sono extra, ma ricordo che negli Stati Uniti lo stesso film è già disponibile in Blu-ray con una montagna di supplementi. E allora questo per quel che concerne Beautiful Mind. L'altra novità in videoteca di cui vogliamo parlarvi questa settimana è un film invece del 79 firmato dal grande maestro compianto che è Sidney Pollack, protagonista Robert Redford insieme a Jane Fonda. Stiamo parlando di Il Cavaliere Elettrico. Lei non deve applicare la logica alla pubblicità, se no le si confondono le idee e basta. Beh, io non la trovo una cosa giusta, la trovo sbagliata. Quelle luci che si accendono e si spengono, quelle ragazze, il cavallo ne soffre. Vede, signore, io facevo i rodei. Ed ero bravo anche. Questo è irrilevante. Per chi? Sonny, credo che potremmo continuare questa conversazione in un altro momento. Ma è importante. L'unica cosa importante è che lei si attenga alle clausole del suo contratto, che non includono il fatto che le formuli giudizi su direttive decise dalla compagnia. Cinque volte campione americano di rodeo, Sonny Steele ha dovuto cessare l'attività per le troppe ossa rotte, svendendo la propria immagine a una multinazionale che lo paga profumatamente come testimonial per una marca di cereali. Affogando lo svilito orgoglio nell'alcol, incapace di accettare le vessazioni imposte a se stesso, ma soprattutto a uno splendido cavallo di inestimabile valore, Sonny fuggirà col destriero verso libere praterie, inseguito da una testarda giornalista che ne condivide la causa e di cui si innamorerà. Una delle opere meno conosciute del grande regista Sidney Pollack, che nel 79 fotografava tra amarezza e poesia il disincanto di un'America soffocata da opportunisti votati al consumismo. Nel cast, oltre a Robert Redford e Jane Fonda, anche il cantante country Willie Nelson. Da Pat Video l'edizione DVD di qualità video molto buona, con l'originale formato cinematografico in CinemaScope. Ci sono le due tracce audio italiano e inglese dell'epoca, sono in Dolby Digital a due canali e come extra abbiamo solo il trailer. E allora grazie Claudio Pofi che ci ha raccontato le uscite di questa settimana in videoteca. Appuntamento la prossima settimana. Ciao, a presto. La base ci sta dicendo che è finita questa puntata della Rosa Purpurea, è finita per il momento, diciamo così. La prossima settimana saremo ancora qui come sempre con le novità al cinema, con il Nanni Moretti pensiero, insomma con tutto il cinema che c'è qui alla Rosa Purpurea. Un saluto da Franco D'Assisi.